Io sono qui a condurvi per mano attraverso la selva oscura delle vostre rabbie, dei vostri odi, delle vostre umiliazioni. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Viva la RAI, viva la RAI, quanti geni lavorano solo per noi. Viva la RAI, con il suo impero dice la RAI, soltanto il vero. Viva la RAI, dimmi da quale parte stai. Una cosa che è il motore dell'identità educativa e culturale non può essere normata da una legge che si chiama legge Gasparri. Per definizione, se è identitario, educativo e culturale, non può essere basato sulla legge Gasparri. Viva la RAI, che cosa è giusta, e con la RAI è sempre festa. Viva la RAI, coi capoccioni e gli operai. La detto devo riprendere questo, perché non si può dire una cosa del genere, è offensivo questo, quello no, che dice di io ritengo, Gasparri, ma no, ma che offensivo, per quale ritengo la mia visione, identità, educazione e cultura di questo paese sia diametralmente opposta di quella del senatore Gasparri. Magari si offende lui, io non mi offendo, è la verità, quindi lo ridico. All'antenna, mamma Rai, non ti abbandona mai. No, no, Gasparri non si è offeso. Non se l'è presa male. Ha twittato solo: Renzi è un vero imbecille, ha un padre di cui vergognarsi, è un arrogante, è tutto chiacchiere, distintivo, insider trading, torni nella loggia del babbo. Ma l'ha presa abbastanza bene. Di solito può fare anche peggio, Non gli ha dato del ciccione ributtante? Gasparri su ste cose, su Twitter, quando gli prende la brocca, inizia a twittare e a scrivere di tutto, Allora, cari italiani, sono le 6:28 minuti e qui siamo a 24 mattino, all'alba della 95esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province. Siamo pronti! C'è la notte degli Oscar, che si è appena conclusa. E la nostra Marta Cagnola vi sta raccontando un po' tutto. E Venezia, spazio Buonaventura per il tiro, controlla al limite, Buonaventura! Jack Buonaventura. Di quanti anni fa è questa? Ah, è di ieri. Ma scusa, non sono più abituato tantissimo. Scusa Peter, cerca di capire. Grazie Peter Bescapè per averci dato questo bicchiere d'acqua nel Sahara. Saluto anche Lorenzo Nespoli in redazione. Mentre invece, eccoli qua. Voglio subito salutarli. Federico Novella e colui che guida il campionato più noioso del mondo. Buongiorno a tutti. Buon lunedì e buona avventura a tutti. Come stai? Va bene. Finalmente riconquisti il sorriso. Finalmente, anche questa settimana non abbiamo perso punti dalla Juve. Ricordo, due settimane di seguito senza distacchi dalla Juve. Ci comincia a divertire un po', perlomeno, dai. Stiamo arrivando, ecco. Novella, stiamo arrivando. Sì, va bene, campa cavallo. Va bene. Mentre non si sa che farà il nostro Alessandro Robecchi, lui eccolo che è interista impenitente. Ma io aspetto stasera sereno. Un uomo che conosce la TV e conosce le reazioni di Gasparri. È stato pacato, è stato misurato stavolta, hai visto Gasparri? Beh, è stato gasparrico, come gasparrico. Gasparrico, è perfettamente in linea con il suo tradizionale aplomb. Sì. Dai, è stato abbastanza, non gli ha dato neanche del ciccione, effettivamente. No, del ciccione è stato moderato, diciamo, sì. Va bene. Ah, vabbè, cosa vi devo dire? Sapete tutto degli Oscar? Sì, sappiamo. Sapete io so qualcosina. Tu sai, novella sa. Ne abbiamo vinto uno, se non sbaglio, per i costumi, giusto? Mamma mia, ecco. Sì, ecco, io queste cose non... Milena Canonero, Gran Budapest Hotel, va bene. O Canonero, come... Vabbè, chi lo sa. Dai, apriamo il Parlamento, su, dai! Vabbè, apriamo il Parlamento. Comunque il miglior film è Birdman, io l'ho visto, un bel film. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Allora, per il resto i giornali invece sono di una discreta noia per quel che riguarda la politica. No, è ripartito il dibattito. Discreta noia, dai, adesso tu, dai, certo. Su. Certo, uno è abituato a spettacoli entusiasmanti come Milan Cesena, poi si annoia, però no, senti, attenzione, c'è il navigatore di novella, dov'è che ti sta mandando? No, non era il navigatore, era la signorina della barriera di Sesto San Giovanni. No, non ci credo. Ah, non di Mediaset. Mi augurava buon viaggio. Non di Mediaset, la barriera di Mediaset. No. È la voce automatica, È la voce automatica, bene. Lo dice per la moglie questo. Ma certo. Assolutamente. Sì, effettivamente era una... Ce la fai risentire un attimo? Perché... come faccio? Non posso fare retromarcia in tangenziale, ormai sono passato. Signorina, dica qualcosa. Cara moglie di Federico Novella, tranquilla, non è che anche a me sembrava abbastanza metallica come voce. Ho capito, però ora non voglio inalberarmi, però la signorina che dice inserire tessera, francamente non capisci che non è molto credibile, insomma. Vabbè, si inizia così. Certo. Io va bene, comunque che dobbiamo fare? Allora, no, perché Robecchi, cosa ti piace invece? Cosa ti piace il dibattito? Piace, come sai, pochissimo, però insomma mi sembra che ieri il nostro amico, il ragazzotto, abbia menato un po' tutti, no? Ha menato Gaspari, ha menato Landini, ha menato la Boldrini, poi un po' ha menato i sindacati, quindi diciamo che ieri, come dire, ha fatto gli straordinari, sì, no? E beh, è andato da Lucia Annunziata lì dai mezz'ora e doveva un po', vabbè, su Gaspari l'abbiamo sentito, vediamo. Ma forse per quello vuole fare un decreto sulla TV, vuole andare un po' in TV perché non ci va mai. Vabbè, insomma, l'ironia sottile di Robecchi lo vedi un po' poco in TV, effettivamente. Pochissimo, io non ho più una TV, ho un quadro con Renzi. Come entro a casa c'è Renzi in TV. Sì, sono quei momenti in cui ti esce anche dal frigorifero. Uno apre per prendere uno yogurt e zac, te esce. Mi ricorda qualcuno. Diciamo. Infatti, non so, Federico Novella, devi annunciarci qualcosa, l'ospite di lunedì di oggi? No, intanto noto la vostra ironia al pari di quella di Gaspari, sostanzialmente. No, guarda che querela, qui sono partite le querele. Il papà di Renzi ha annunciato querela nei confronti di Gaspari, No, il papà di Renzi ha annunciato querela, questo non lo sapevo. Sì, davvero. Però querelare Gaspari credo che dovrebbe essere obbligatorio dalle scuole medie. Lo insegneremo nelle scuole elementari. Educazione civica. Vabbè. Esatto. Dimmi un po', Novella, hai Renzi oggi ospite? No, parliamo di Gino Paoli, figurati, no, ah. non c'è Renzi, però ho visto che lui dopo una brevissima pausa, si era preso un po' di pausa nei giorni scorsi, è tornato questa settimana con Virus, poi con Lucia Annunziata, diciamo che a lui piace stare in televisione, al di là di quello che dice ci si trova bene, ha sempre detto che vorrebbe condurre un programma quando mai smettesse di fare politica. È vero. Sempre detto, diamoglielo subito. Diamoglielo subito. Robecchi, ma è il presidente del consiglio, ma se viene invitato, cosa deve fare? Non... Poverino, anche Matteo. Perché immagino lo sconcerto quando lo invitano, quando dice: ma no, ancora porca miseria. Anche perché, però, diciamocelo, dati alla mano, è uno dei pochissimi politici che fa sempre ascolti Renzi in televisione. Allora, appunto, diamogli un programma, cioè, finalmente risolleviamo il classico caso di braccia rubate alla televisione. Ecco. Sì, esatto. Diamogli porta a porta, così eliminiamo anche il tempo perso per invitarlo. Questo state dicendo. Così può fare un plastico di Landini e distruggerlo a martellate. Vabbè. Ma su Landini chi ha detto? Ce l'abbiamo la frase su Landini? Sì, sentite qua su Landini. Ha detto che va in politica perché ha perso. perso come sindacalista, eh? E poi gli ha fatto ironicamente gli auguri. Vai Renzi su Landini. Non credo che Landini abbandoni il sindacato. Se mi permette una battuta, è il sindacato che ha abbandonato Landini. Nel momento in cui Landini si è messo contro Marchionne è diventato il personaggio che tutti noi conosciamo. Cos'è accaduto in queste ultime settimane? È accaduto che il progetto Marchionne sta partendo. È evidente che questa sconfitta sindacale pone Landini nel bisogno di cambiare pagina. Quindi è evidente che per Landini l'impegno in politica io lo considero scontato. Avendo perso la battaglia sindacale dovrà giocare la battaglia politica. Zac Robecchi è uno, è infilato così nello spiedo. Zac è il primo. L'eleganza di chi sa vincere, diciamo, no? Sì, è un po' juventino in questo, Renzi. Così gli diamo noi una bella infilzata. Anche perché tutto questo innamoramento per il progetto Marchionne, diciamo così, che se io fossi un presidente del Consiglio preferirei le aziende con sede legale in Italia e non in Olanda, e che pagano le tasse in Italia e non in Inghilterra, questa è un po' antimodernista ormai, perché le multinazionali pagano le tasse un po' ovunque. Chi se ne frega di pagare le tasse in Italia? Basta che uno le paghi, voglio dire, la sede dove la metti paghi le tasse, non è che... È passato di moda il fatto di pagare le tasse in Italia. È un rimasuglio del Novecento, diciamo. roba antica, un po' come i diritti dei lavoratori, roba vecchia di sinistra, che ce ne frega a noi. Insomma, non ti piace questo Jobs Act, eh? Questo Jobs Act tu lo demoliresti? Devo dire che non mi piace, perché l'ho letto, l'ho studiato e non mi piace. E trovo che ci siano anche delle cose un po' ridicole quando lui dice abbiamo abolito i co-co-co, che sono aboliti dal 2003, fa un po' ridere. Però al di là di questo mi basta vedere chi esulta, cioè ho visto esultare Lupi, Alfano, Squinzi, Sacconi, ed è difficile che quindi esultino anche i giovani precari, che comunque da oggi non ci sono più, giusto? Ma non è così. Guarda, io ieri leggevo un pezzo di Caterina Soffici, straordinario, sul Fatto Quotidiano. Io l'ho trovato bello, insomma, però sono opinione. A dire Caterina Soffici scrive sul Fatto Quotidiano, scrive da Londra, e dire basta pensare di far credere ai giovani che esista il posto tutelato come quello dei papà. Il vero dramma, caro Robecchi, secondo me, è che c'è appunto questa disparità, questo sì che si crea, cioè tra i genitori nostri, le generazioni vecchie che hanno troppi diritti, tutto tutelato, e i nuovi no. Intanto la parola troppi diritti non mi piace, perché troppi diritti rispetto a come è il mondo, è come il mondo che è cambiato. Ma la disoccupazione che ci sono, ma come fai a dire che quelli sono garantiti? Come fai a dire che quelli sono garantiti, che ne licenziano 100.000 al giorno? Sono troppo garantiti, perché il mercato del lavoro è cambiato. Per avere tutte quelle tutele si è creato un mercato del lavoro di questo tipo. Ma in Inghilterra non è così, in America non è così, in tutto il mondo c'è più dinamismo e flessibilità. In Inghilterra non è così, hai molto ragione. E infatti, se tu vai a vedere le statistiche, ha pubblicato un bel pezzo il Guardian pochi giorni fa, tu vai a vedere che le diseguaglianze in Inghilterra negli ultimi 15 anni, cioè da quando il nostro signore dell'Iraq, Tony Blair, ha fatto le sue riforme, che sono simili a quelle che fa oggi Matteuccio nostro, la diseguaglianza è aumentata esponenzialmente. I ricchi sono molto più ricchi, i poveri sono molto più poveri. Quindi questo ridisegno a base di cancellazione di diritti piace molto a quelli più ricchi. Novella, che ne pensi? No. Io la penso in maniera diversa, ma insomma sono anche uno, faccio un po' fatica a dire, perché dico ma tu hai il posto fisso. Ho capito, infatti forse bisognerebbe far rinunciare chi ha il posto fisso per un mercato più dinamico, a favore anche di quelli che il posto non c'ha. L'unica cosa certa è che adesso in Italia ci sono due tipi di lavoratori: i lavoratori che sono legati a regole vecchie e i lavoratori che il lavoro non ce l'hanno o ce l'hanno per poche settimane, che non li tutela nessuno. I sindacati non tutelano quel tipo di lavoratori. Ma anche questo i sindacati non è vero. Alessandro, è così, cioè io non vedo i sindacati fare delle grandi battaglie e sfilare in piazza per un giovane disoccupato. Quelli che il lavoro non lo vedo. Non potranno mai mai perderlo. Forse non li vedi perché non li guardi, perché ci sono, ti assicuro, ma non voglio difendere il sindacato che ha 1 miliardo di pecche, per carità, orrore e raccapriccio, però attenzione che non è levando diritti agli altri che darai diritti a quelli lì. Non è questione di levare diritti, è questione che se il mondo cambia, tu dici la gente perde il posto di lavoro, e lo so anch'io perché le aziende falliscono, succede, a volte succede. Allora, secondo te, e non è contento nessuno quando un'azienda fallisce. Invece il dimensionamento è una bella cosa, diciamo, no? Quando un imprenditore per assumere un giovane deve fare una corsa ad ostacoli e deve rispettare una serie di garanzie incredibili e sceglie di non assumerlo, allora vuol dire che qualcosa va cambiato. Lo stesso motivo per cui se assume una persona, e lo sai meglio di me, Robecchi. Se la deve tenere qualunque cosa succeda. Ma che dite? Ma non vi facevo così vittime della propaganda? Ma che vittime della propaganda? Se te lo devi tenere a tutti i costi, questo privilegiato di questo lavoratore, questo affamatore del popolo che con i suoi diritti affama la gente, se te lo devi tenere a tutti i costi, non si capisce esattamente perché invece viene licenziato in 5 minuti. Ma perché succede? Ma certo, nel momento in cui le aziende vanno bene, te lo devi tenere. Se le aziende falliscono, succede, no? Di perdere il posto di lavoro. I comuni con Milan, che molte aziende che vanno bene o non male, diciamo, licenziano lo stesso, e ti dirò di più, che saranno molto incentivate adesso a licenziare cinquantenni per prendere dei 22enni a cui per 3 anni non permette. Se l'azienda va bene e tu sei bravo, stai sicuro che non ti licenziano. Ma no, questo è un concetto difficile. Se sei bravo e hai un lavoro, diciamo così, una mansione alta, difficile da sostituire, di sicuro. Se invece lavi i piatti o fai le fotocopie, che uno vale l'altro, stai tranquillo che l'azienda prenderà quello che gli conviene di più. Come vedete, sul Jobs Act io pensavo che fosse uno di quei discorsi soliti in cui c'è adesso, però ecco, la cosa che non mi piace è che partiranno sui giornali. A me questi dibattiti piacciono, no? In cui le persone la pensano in modo diverso, si confrontano. E invece cosa vedremo? Renzi che parla di Landini, Landini che risponde a Renzi, Landini che deve dire se entra in politica, la Camusso che interviene sul referendum, intervistone appaginato in cui intanto quando Renzi dice ai sindacati non resta che la politica, non è che c'ha tutti i torti, cioè ci sarà un motivo se i sindacati non sono mai stati così privi di iscritti, ormai i sindacati tutelano solo i pensionati, cioè quelli che il lavoro non ce l'hanno più. Iscritti anche il PD, la domanda è come mai i lavoratori non si fanno più tutelare dei sindacati? Ci sarà un motivo. Perché i sindacati ti tutelano in un modo vecchio, che non è più al passo con i tempi. Non dirlo che Robecchi si arrabbia, che tutelano i nuovi, tutelano i giovani, tutelano i giovani. Stupirò il dottor Milan. Sono d'accordo. E infatti quello che ha detto Landini non è io andrò a fare il politico come furbettamente Renzi ha interpretato, ma ha detto serve in questo paese una forza sociale e politica di sinistra, perché in questo momento non c'è. Landini ha smentito, ha detto non è vero che vada in politica, eccetera. Mentre invece c'è chi dice che Renzi verrà a annunciare il traffico tra poco qui a Radio 24, capito? noi guardate che ci terremmo. Novella, tieni stretto la sedia, Milan, tieniti stretto la sedia. Sì, infatti. È un bruttissimo modo per tirarlo fuori dalle previsioni Esatto, ho invitato Robecchi che ha appena criticato il Jobs Act, quindi non so se io do il traffico, non so se quando rientro la sedia sarà ancora il mio culo poggiato sulla sedia o se già provvederanno a sostituirlo. Facciamo questo esperimento, vediamo se ho troppi diritti garantiti e sarò qua tra 2 minuti. 24 mattino. Come al solito spari cazzate dalla mattina subito, presto, alle 6:30, sei già lì che dici le stronzate. La colpa è la nostra, che la polizia non può caricare che distrugge le città, che siano olandesi, italiani, di qualunque nazionalità, perché qualcuno politicamente corretto dice che non sta bene picchiare sta gente. Corte Costituzionale della Repubblica Italiana. Oi, Pasqua, che c'è, Salvatore? E questo vuole abbassare lo stipendio a chi tu dà? Ma si faccia, no, no. Ah, e poi ce l'abbassano pure a noi. Incostituzionale! Milan, volevo ringraziarti per quel fenomeno della Boschi, è una persona fantastica. Ma perché non provi a fargli dire insider training? Ahmed Milan, il sindaco musulmano di Radio 24. Mi chiedo perché quando arrivano i tifosi di calcio da tutte le parti d'Europa sono fascisti, comunque sono legati alla politica. Io sono stato alla partita di rugby Italia-Irlanda, tutti ubriachi, si vendeva alcol, non è successo nulla. Il rugby è pacifico, il calcio per me è da abolire. Milan, per me sei un MILF, ma io lascio fare. E adesso denunciami. MILF, sono ancora qua, Robecchi. Sono ancora qua. I privilegi. Hanno cercato in tre di portarmi fuori. Ho fatto subito far vedere il contratto. Ho fatto vedere il contratto. Ma no, ma ci scherzo, perché dai, su adesso fammici scherzare. Ho fatto vedere il contratto e sono usciti. Hanno detto: sei troppo tutelato. E quindi devi fare di più. Devi fare di più. Allora, sì, MILF. Avete detto, novella, quello che ha dato del MILF alla collega, è stato licenziato? Ha dato Sì. Che pensavo fosse un complimento. Io la come è stato licenziato? È stato licenziato. Troppi diritti che aveva, dove sono finiti? Di fronte all'accusa di MILF, anche il giudice non ha potuto opporre nessun tipo di contratto. Che deve vedi? La verità. Quindi è possibile. È possibile licenziare. Vabbè, ho capito adesso. Cioè, se uno insulta ed è stato considerato un insulto, che dobbiamo fare? Beh, è un insulto, sì. Ma dai, MILF. Comunque, sappiate una cosa, che dobbiamo dare 40.000 euro, anzi sono già stati dati 40.000 euro a Vittorio Emanuele di Savoia. Soldi tuoi, Federico Novella, soldi tuoi, Alessandro Rebecchi. Soldi anche miei, soldi di tutti i nostri ascoltatori. Perché non tutti io glieli devo dare, però, eh. Beh, non so se vuoi fare facciamo in tre, dividiamo in tre, quanto fate? No, beh, che sono 40.000 euro, sei matto. Sono 13, 14, 15 mila euro, vedi te. Perché è stato detenuto ingiustamente 7 giorni per la vicenda Woodcock. Vi ricordate? Tutto il ricordo di Novella quando è stato. E quindi 40 mila euro da pagare. Ma io glieli do anche volentieri. Più che altro diamoli diamogli anche a tutti gli altri italiani che magari sono stati detenuti. Ma sono tanti che beccano questi tipi di risarcimento, sai, abbiamo questa cosa vergognosa, peraltro, della detenzione preventiva, e in questi casi facciamoli pagare al giudice che ha deciso di... Io volevo istigare Novella, così. È una cosa logica, insomma, chi è che ha sbagliato? Il giudice, e paghi lui. Vabbè, ho capito, però... addirittura... Robecchi, almeno una pena di morte, se no tutti quei giudici a riattaccare teste sarebbe almeno una parte, facciamoli pagare a lui. Vabbè, dai, Robecchi, un principio di responsabilità, no? Civile ci vuole, o no? Ah no, assolutamente, poi soprattutto non bisogna mettere in galera la gente prima di una condanna, su questo non c'è alcun dubbio. Ah, su questo sì, la detenzione, almeno siamo d'accordo, su questo la detenzione... Sì, oltretutto riguarda più di un terzo della gente che sta in galera. Vabbè, insomma, comunque arriva un messaggio e giro a voi, noti esperti, perché mi arriva una domanda, ma io ho qua, posso approfittare. Che cosa significa MILF? Prego, Robecchi, insomma, è materiale per te? È un acronimo. Esatto. Sì, mamma che vorrei. Insomma, meno male che parlavo. Mother I'd like to fuck. Fuck. Sì. Sì. Sì. Sì. Beh, sì, siamo informatissimi sull'argomento, però credo che il concetto sia quello. Sì, sì, in realtà, come dire, raffigura, come dire, quarantenni, quarantacinquenni, cinquantenni, sì. Molto, molto affascinanti, no? No. Cinquantenni affascinanti è un conto, e madre che vorrei scoparmi è un altro. Mira, che dici? Scusa. Una cinquantenne affascinante. Vabbè, no, ho capito. Affascinante siamo... è una cosa, e chi vuole scoprire. Sì, il concetto l'hai ribadito abbastanza chiaro. Si trova d'accordo con Robecchio. Vabbè, io voglio dire, la volevo mettere in maniera un po' più sfumata, un po' più romantica. Sì. Lo so, ma non è mattina di romanticismo, vedi anche la signorina infilare la tessera. Sì, non è mattina di romanticismo. Ma a proposito, sì, Novella, non hai ricevuto telefonate dalla moglie durante il traffico, magari a chiarire? Aspettare che si svegli. Se vuoi, chiamami domani, ti aggiorno. Però vedremo a mandarle la registrazione. Sei aperta la barra di Mediaset? Aperta la sbarra, e quindi no, siamo, il miracolo si è ripetuto, e sì, no, devo dire che insomma, tra una quarantenne affascinante e una quarantenne facile c'è una sottile differenza. C'è una sottile differenza. Sì. Vabbè, facile è diventata facile. Facile è meglio rispetto a Robecchi, alla definizione occasione da gol. Nuda e cruda di Robecchi. Noi alle 8:15 parleremo di questa storia ancora del calcio, eh? Sappiate che gli olandesi oggi verranno tutti scarcerati e rimandati con un primo aereo a Rotterdam. Con un mazzo di fiori anche. Con un mazzo di tulipani, credo. Esatto, un mazzo di tulipani. Vabbè, tu Robecchi, su questo hai un'idea compiuta? Come no, certo, un ministro degli interni che fa arrivare 6.000 ubriachi in Piazza di Spagna deve andare a casa domani mattina. Oh, ecco, un editoriale secco, Alfano a casa. Questo. Ma beh, mica solo lui però, mica solo lui. Infatti anche il prefetto, sì. Anche il prefetto, sì. Anche il questore? Anche il questore. Anche il sindaco? No, il sindaco. A meno che non abbia... sindaco. No, il sindaco, per carità, ci sono anche molti motivi, mi dicono quelli che abitano a Roma, però non credo che... una decina, una ventina di vigili urbani avrebbero potuto fermare. No, questo, quella lì è una roba di ordine pubblico. Su questo sono d'accordo. Sono d'accordo. Sentiamo il brunetta del giorno, ce la facciamo? Il brunetta del giorno? Vi devo lasciare col brunetta del giorno. Dai. Da quando il Nazareno è morto, Fitto non ha più alcuna ragione contenutistica di opposizione. Per cui adesso Fitto dice azzeriamo tutto, eleggiamo tutti, eccetera, eccetera. Ma lui per primo dovrebbe porsi il problema di azzerarsi o autoazzerarsi. Si autoazzeri! Si autoazzeri! Vi devo salutare, Novella alle 9 parla di Gino Paoli. Grazie, su Mattino 5 ciao, ovviamente. Ciao. Alla prossima. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qui, cari italiani, sono le 7:18 minuti e la 95esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province può cominciare ufficialmente, anzi è già iniziata, eh? Noi sapete siamo qui dalle 6:30, voi debosciati un po' meno, ma ci siamo. Oggi parleremo della vicenda, degli strascichi, delle polemiche, della devastazione di Roma, scrive il Messaggero, che oggi molto presumibilmente anche gli ultimi 6 tifosi del Feyenoord che sono stati arrestati verranno rimandati in Olanda, poi ci sarà un processo. Il processo in contumacia, ovviamente, perché non torneranno, e con tanto di scuse verranno rimandati in no, senza scuse, verranno rispediti a Rotterdam. Le polemiche, come al solito, oggi ancora il sindaco di Roma Ignazio Marino ne parla sul Fatto Quotidiano. Comunque ne parleremo con Oliviero Bea, ne parleremo con Massimo Giletti dell'Arena di Rai 1 e con voi, cari ascoltatori. Parleremo anche di immigrazione. Avremo ospite Carlotta Sami, che è portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU. Questo è il menù dalle 8.15. Ora andiamo a leggere i giornali. Questo lunedì 23 febbraio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre con la lotta al contante, cambia ancora passo, questo è il titolo di prima pagina. Poi le aperture si dedicano sulla scuola, perché ieri Renzi ha illustrato la riforma della scuola, in cattedra solo per concorso, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per il secolo XIX la scuola assume i precari. La Stampa invece, scuola nuove regole per i precari. L'apertura di Repubblica è sulla Grecia, la resa di Tsipras. Restano Italia gli statali, ad Atene ancora austerity. Questo è il titolo di prima pagina. Oggi Atene renderà nota la lista delle riforme da fare. Il Messaggero, Landini in politica, Renzi attacca. Mentre il Fatto Quotidiano, quando lo Stato non paga, ha un'inchiesta su avvocati, insegnanti, ingegneri, commercialisti, insomma su migliaia di professionisti che lavorano come matti per la pubblica amministrazione, ma devono aspettare mesi o anni per ricevere il compenso dovuto. Voglio partire però da che cosa? Beh, si è molto parlato del Consiglio dei Ministri per il Jobs Act e molto c'è sul Sole 24 Ore, poi lo vedremo, e molto c'è di dibattito politico su questo. Si è parlato un po' meno delle liberalizzazioni, o meglio delle mancate liberalizzazioni, come giustamente oggi scrive Paolo Baroni sulla Stampa. Ma come? Non c'era tutta la questione dei farmaci, non c'era tutta la questione dei tassisti, non c'era tutta la questione delle assicurazioni. Ebbene, liberalizzazioni dimezzate, così funziona la lobby del rinvio, questo è il titolo di pagina 6 della Stampa, Paolo Baroni. È solo un caso se in Italia, che ha il numero di farmacisti più alto d'Europa, ben 79.000 contro i 72.000 della Francia o 52.000 della Germania, non si riesce più a fare passi avanti sul fronte delle liberalizzazioni di farmaci e farmacie? Dal 2006, dal decreto Visco-Bersani, le parafarmacie, che hanno aperto le parafarmacie, in questo campo l'apertura alla concorrenza si è fermata. Ci aveva provato Monti nel 2011 a proporre di rendere libera la vendita dei medicinali di fascia C, ma ha dovuto fare dietro fronte. La stessa sorte tocca ora a Renzi. E non solo sulle farmacie non si passa, non è passata nemmeno la richiesta avanzata dall'antitrust di aumentare la diffusione di prodotti equivalenti. Questo perché non vogliono gli industriali del settore. E ancora, sui tassisti. I tassisti non hanno dovuto fare lo stesso cancan. È bastato bloccare Torino mezza giornata per mandare a quelli di Roma un messaggio chiaro. Volete che vi blocchiamo il paese nell'anno dell'Expo? Detto fatto, l'articolo che doveva far cadere le barriere che ostacolano l'attività di Uber o dei noleggi con conducente è svanito. Rinviata anche la riforma dei porti, rinviata la riforma degli aeroporti e ancora le assicurazioni. Qui sul norme come quelle sulle assicurazioni che prevedono un severo giro di vite sulle truffe, anche se vengono presentate come importanti risultati a favore dei cittadini, lette con gli occhiali dell'associazione dei consumatori, sono un bel regalo per la potentissima lobby delle assicurazioni. Questo almeno è ciò che scrive Paolo Baroni sulla Stampa, e cioè le liberalizzazioni mancate. Tra l'altro il giorno intervista proprio Benedetta Arese Lucini, una donna che vive sotto scorta ormai da tempo, è colei che è la manager di Uber in Italia, la responsabile di Uber in Italia, viene intervistata da Nicola Palma, pagina 6, regole per un mondo già finito, dice, non voglio vedere questo come una contrattazione tra governo e lobby. Certo, poteva esserci l'occasione per porre rimedio a una norma che oggi appare irrazionale e contribuisce a bloccare un intero settore già in difficoltà. Sicuramente il clima è stato inasprito dalle proteste, ma non so giudicare quanto questo abbia influito. Certo, non ha creato un dialogo sereno. Le mancate liberalizzazioni, oggi sia la Stampa che il Giorno si dedicano a questo. Invece, qui di liberalizzazioni non ce ne sono mai. Sulla facilità di abbattere i gli edifici abusivi in Italia proprio non ci sentiamo. Il Sole 24 Ore oggi torna in prima pagina a raccontare gli abusivismi in Italia. Contro le ruspe l'abusivo, scrive al Quirinale. Succede in Italia, dove per bloccare le demolizioni delle case abusive paradossalmente può bastare una semplice istanza al Quirinale, scrivono Valeria Uva e Antonello Cherchi, è prima pagina del Sole. Il capo dello Stato in realtà non ha responsabilità rispetto al triste primato delle mancate demolizioni di immobili abusivi, se non per il fatto che rivolgendosi a lui con 13.000 ricorsi straordinari su condono edilizio e demolizioni, altrettanti cittadini sono riusciti a rimandare per anni le ruspe. Oltre 10.000 fino al 2010, altri 3.000 negli ultimi 3 anni. Questo è il conto annuale delle infrastrutture. Un'emergenza silenziosa con questi ricorsi si fa un rinvio. No, in Italia, ricordate i tempi di Enrico Slitta? Eccolo qua, il rinvio. La casa abusiva sfugge alle ruspe. Per rinviare le demolizioni ci sono anche 13.000 istanze al capo dello Stato. Demolizioni di case abusive che non si fanno, come certifica il Sole 24 Ore in prima pagina e poi gli articoli a pagina 7. A proposito di Stato, invece, il Messaggero ha una pagina molto interessante che vi segnalo, la scrive Claudio Marincola, e riguarda che cosa? Gli enti pubblici nel bilancio dello Stato. Per la precisione, quei 363 enti pubblici nel bilancio dello Stato. C'è di tutto, dal CNR, ma anche ad afragola.net. E si chiede il Messaggero, che ci fa la presidenza del Consiglio nel calderone di afragola.net? E l'Agenzia del Demanio cosa c'entra con l'azienda del cavalier Marco Rossi Sidoli? L'Istituto Ville Tuscolane che c'entra con il CNEL o con il CNR? Ecco, fanno parte della stessa famiglia, una grande famiglia allargata. 363 amministrazioni, arcinote o misconosciute, tenute insieme da un filo. Tutte, grandi o piccole, sono inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Avrebbero dunque l'obbligo di seguire le stesse regole di bilancio, programmare le entrate, pianificare le uscite, monitorare e rispettare i tetti di spesa per gare, retribuzioni, consulenze. Ogni anno l'Istat, che ne fa parte, aggiorna l'elenco pubblicandolo sulla Gazzetta Ufficiale. E incredibilmente questi enti pubblici crescono! Aumentano sempre, sono 70 in più registrati nel 2014. E Claudio Marincola ne analizza alcuni sul Messaggero a pagina 11 per capire che tipo di enti sono. Ma il momento dell'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata è il momento di tenere le mani strette sul volante se siete alla guida, appoggiare come al solito tutte le cose bollenti o taglienti se state facendo le vostre interminabili colazioni. È l'apertura del giornale. Il titolo è emblematico: La Repubblica risarcisce il re. Come la Repubblica risarcisce il re? Ebbene sì, Stefano Zurlo a pagina 6, ma con tanto anche di editoriale in prima pagina del direttore Sallusti, racconta la storia di Vittorio Emanuele di Savoia. Ricordate che fu arrestato il 16 giugno 2006, ammanettato sul lago di Como, chiuso dentro un appunto e portato di volata a Potenza per un'inchiesta del PM Woodcock, Harry John Woodcock. Le accuse erano associazione a delinquere, finalizzata la corruzione al gioco d'azzardo, associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, più altri illeciti. Ebbene, le accuse sono poi svanite nel corso del tempo e a Vittorio Emanuele di Savoia, che è rimasto 7 giorni in carcere, lo Stato ha riconosciuto un risarcimento di 40.000 euro. Ma 40.000 euro poi per 7 giorni di carcere, una roba pazzesca. 40.000 euro già pagati. Il Ministero dell'Economia ha staccato l'assegno da quasi 40.000 euro per cancellare l'ignominia sulla testa coronata. Racconta il suo avvocato Murgia, il principe era amareggiato per ciò che era successo in patria. ora è più sereno, capite? Con 40.000 euro è un po' più sereno lui. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, l'arbitro imparziale dell'informazione. E va bene, siamo arbitri. Allora, qua alle 7:34 minuti siamo pronti a continuare nella lettura dei giornali. La politica si è animata ieri, vabbè, per l'intervista di Matteo Renzi, che è stato ospite di Lucia Annunziata, in mezz'ora. E poi si è parlato di scuola anche, con la presentazione delle novità sulla scuola che dovrebbero essere approvate venerdì prossimo in Consiglio dei Ministri. Intanto la politica discute sul Jobs Act che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri come decreti attuativi e subito lo scontro si è animato. Landini, leader della FIOM, ha fatto un'intervista al Fatto Quotidiano, poi parzialmente corretta, perché il Fatto Quotidiano l'ha titolata più o meno così: pronto a scendere in politica, mentre Landini dice non è vero, non sono pronto a fare politica. Però Renzi ieri ha risposto. Landini è uno sconfitto. Leggo a pagina 5 del Corriere della Sera l'articolo di Maria Teresa Meli. Matteo Renzi ha superato il primo anno di governo, è convinto però di avere ancora tanto tempo davanti a sé, dice, di la maggioranza blindata sino alla fine della legislatura. E racconta di Landini: non mi preoccupa, ha acquisito visibilità schierandosi contro Marchionne. Oggi che Marchionne sta vincendo, lui deve scappare dal sindacato. Normale, io provo massimo rispetto per Landini, ma non è il primo sindacalista a buttarsi in politica e non sarà l'ultimo. Auguri. Poi racconta i suoi: il Jobs Act ormai è andato, ormai è fatta, pazienza per le lamentele e gli attacchi, strascichi inevitabili, se si vogliono fare le riforme e cambiare questo paese, chi preferisce che tutto rimanga come adesso ci sarà sempre. Morale della favola: se la minoranza interna pensava di condizionare le mosse del Presidente del Consiglio, ecco invece che si va avanti. Parla ancora con i suoi di polemiche ridicole, di castronerie sul tema banche popolari, Matteo Renzi, e poi lancia questa idea della riforma della RAI con questa frase che la stessa Annunziata ha bollato come offensiva. Dice Matteo Renzi: il nostro obiettivo è non fare eleggere il nuovo consiglio di amministrazione della RAI con una legge chiamata Gasparri. La frase offensiva più o meno suonava così: in un'azienda che si occupa di cultura degli italiani, un'azienda che si occupa di cultura degli italiani non può essere normata da una legge che si chiama Gasparri. È proprio, come dire, faceva notare quasi una contraddizione. E Gasparri l'ha presa benissimo, eh? Sapete che Gasparri, quando si trova davanti a Twitter, non perde la brocca. E quindi Gasparri ha twittato, evidentemente stava vedendo l'intervista di Lucia Annunziata a Renzi: Renzi è un vero imbecille, figlio di massone, torni da suo babbo e nella sua loggia, è tutto chiacchiere, distintivo, insider trading, è un uomo privo di basi culturali, dittatorello fiorentino. Ecco, questi sono i termini con cui ha reagito più o meno Gasparri. Il padre di Matteo Renzi, Tiziano, ha già annunciato querela per questi tweet. E vabbè, si è partiti anche il giornale dal premier: insulti a Gasparri e lui: vergognati per tuo padre. Pagina 3. La Stampa, anche con Maria Corbi, dedica un articolo sulla lite a distanza con Gasparri sulla RAI. Gasparri che dice: Matteo è un dittatorello e finirà male. L'altro tema, forse più concreto, che riguarda un numero maggiore di italiani, è quello della scuola. La nuova scuola al via, l'annuncio delle novità che verranno poi portate in Consiglio dei Ministri venerdì. E Corrado Zunino, ogni tanto prende una pausa, scusate, ma ho mal di gola da ieri, che metà ne basta. Corrado Zunino, a pagina 9 di Repubblica, racconta i 60.000 docenti per le materie in più. La domenica della festa di governo, col fisiologico sovrappiù di propaganda, è servita agli orchestratori della buona scuola, cioè il ministro Giannini, il sottosegretario Faraone e la responsabile scuola del partito Puglisi, per fare il punto su una bozza ancora lunga e non definita in ogni articolo. Ma vediamo quali sono i punti più importanti per Repubblica. La stabilizzazione dei 148.000 precari di lunga data resta il cuore e lo snodo del decreto. Dice Renzi, non assumiamo solo per dare serenità ai supplenti, assumiamo perché far vivere gli insegnanti tra l'incubo degli spezzoni, le chiamate ad agosto, le rinunce concordate, danneggia gli studenti. E poi il testo è già a buon punto: dei 148.000 assunti in ruolo per il prossimo settembre, 88.000 saranno ex supplenti in graduatoria, i restanti 60.000 andranno a sviluppare le nuove materie e amplieranno il tempo pieno nel primo ciclo, garantendo 2 o 3 ore di doppio maestro con presente. Poi ci sarà nel decreto legge la reintroduzione di 1 ora di economia e diritto in terza e quarta superiore, licei e istituti tecnici, si chiamerà competenze di cittadinanza, è una versione ristrutturata di educazione civica. Storia dell'arte sarà estesa con 1 ora aggiuntiva nei 5 anni di liceo, nei tecnici e professionali. È in fieri l'introduzione di 2 ore a settimana di educazione alla musica nelle classi quarta e quinta della scuola primaria, quindi 1 ora di educazione fisica per tutti dalla seconda alla quinta elementare, in molte scuole già si fa. Ci sarà una crescita dell'informatica e del coding, il codice informatico che crea le basi per il pensiero algoritmico. Visto che nei prossimi 3 anni in ogni aula delle primarie gli alunni dovranno imparare a risolvere problemi complessi applicando paradigmi informatici. Insomma, questi alcuni degli aspetti, altri li vedete nell'articolo di Corrado Zunino a pagina 9 di Repubblica, come sarà la nuova scuola, questa almeno nella ipotesi di Renzi. Per il resto la politica, che dire, quando si occupa di queste cose sono cose concrete, la scuola, il lavoro, il Jobs Act con tutte le discussioni. E poi c'è il dibattito, i dibattiti interni ai partiti. Ancora puntata 8483 della telenovela Berlusconi Fitto. Berlusconi pensa a non ricandidare i fittiani e il Corriere della Sera con Fabrizio Roncone a pagina 8, insomma alla ricerca anche di commentatori, ogni giorno bisogna inventarsi qualcosa, intervista Claudio Scaiola, un'intera pagina su ciò che succede all'interno di Forza Italia. Mentre Repubblica racconta che sta per nascere, i soldi ci sono già, 230 milioni della vecchia Alleanza Nazionale. I nomi pure ci sono, Fini, Alemanno, Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Altero, Matteoli. Sta per nascere la cosa di destra. Carmelo Lo Papa è certo, pagina 10 e 11 di Repubblica. Il rischio è quello di essere risucchiati da Salvini o di vedere la fine comunque del berlusconismo senza un'alternativa a destra, e quindi eccola qui, la cosa di destra per il dopo Berlusconi. I nomi ve li ho detti, i soldi vengono dal patrimonio della ex Alleanza Nazionale, 230 milioni. Chissà se nascerà questa cosa di destra, chissà se si riappacificheranno invece Tosi, Salvini e Zaia. Sapete che in Veneto c'è da un po' di tempo maretta all'interno della Lega? Beh, leggere per credere l'intervista a Salvini del Corriere della Sera, Marco Cremonesi a pagina 9. Salvini che parla di Tosi così, quel dirigente, lo chiama sempre così durante l'intervista, quel dirigente non rispetta i militanti. Basta ostacolare Zaia. Mi ha dato fastidio il fatto che quel dirigente abbia detto che non sa se viene a Roma la manifestazione che organizzeremo per sabato prossimo. Ma come? Ci sono centinaia di pullman del tuo partito, c'è un mare di gente che è disposta per essere presente di rinunciare a una domenica di riposo, spenderà dei soldi, si alzerà all'alba e tu non vieni? Non fosse altro per il rispetto dovuto ai militanti, tu alla manifestazione vieni. Punto. Poi discutiamo della regione. Ecco come Salvini si rivolge a Tosi, che un giorno sì, un giorno no, minaccia di correre anche lui alla regione, sparpagliando, dividendo dunque la Lega in Veneto. Staremo a vedere. Intanto, sul Sole 24 Ore si racconta che la riforma delle province non è ancora completata. Oibò, Mauro Meazza, oibò. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. In realtà sarebbe completata, Proviamo a dirla così. In parole tue. Le regioni devono fare delle leggi per completare questa riforma. Diverse regioni hanno fatto delle leggi, però Gianni Trovati, che è un birichino come noi, è andato a guardarsele queste leggi e ha scoperto che molte di queste leggi rinviano successivi provvedimenti. Quindi diciamo che la riforma va avanti un po' lentamente. Siamo nella 95esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Abbiamo tempo, abbiamo abbastanza tempo davanti a noi, ci sono passate solo 95 settimane, possiamo un obiettivo credibile, 200-300 settimane. Comunque, tutti i dettagli sul Sole 24 Ore, non nelle pagine di Norme e Tributi questa volta, perché lì invece troverai un dilemma importante. Tu sei per il ravvedimento o l'accertamento con adesione? È come dire vuoi più bene a papà o alla mamma. Esatto. Sono domande. Perché quest'anno c'è questa doppia possibilità: il ravvedimento e l'accertamento con adesione. Per aiutarti a decidere se vuoi più bene al papà o alla mamma, facciamo anche uno specchietto, così ti facciamo vedere quali sono i vantaggi dell'uno e dell'altro, di ridurre le parti sanzionatorie con il fisco. Poi oggi è una giornata importante per il fisco, caro Alessandro, perché c'è la firma della con la Svizzera. Con la Svizzera, e allora noi ti ricordiamo tutto quello che questo comporta per i tuoi due urini anche per coloro che potrebbero, come te, avere smarrito del contante oltre frontiera, dimenticandosi poi di dirlo al fisco. Insomma, sono smemoratezze che possono capitare, però adesso con questa firma alcune cose cambiano. Allora, leggi sul Sole 24 Ore, pagina 2 di oggi, la vicenda. Non ti tedio sulle case abusive, perché so che già ne hai parlato. Invece ti inviterei a meditare sul Jobs Act. Oggi presentiamo come cambiano gli indennizzi, quindi per i licenziamenti cosiddetti, appunto, licenziamenti illegittimi, come funzionano i nuovi reintegri o gli indennizzi, e poi come cambiano gli ammortizzatori sociali. Hai deciso se sei per il ravvedimento o no, decido, ti faccio sapere domani, quando sapremo anche come è andata l'Inter. Vedo che non parli di calcio, ma non ho potuto seguire nulla ieri, quindi sono disinformato. Cos'è successo? È successo qualcosa di importante? Insomma, intanto il Milan ha vinto, questa dovrebbe essere già una notizia. A caspita, però un notizione di questi tempi, mi viene da dire, Alessandro. Allora, ti rimando alla tua meditazione. Nel frattempo mi preparo allora adeguatamente per stasera. Domani mi dici cosa hai deciso tra ravvedimento e accertamento con adesione. È Alessandro Milan, bellezza, e tu non puoi farci niente. Hai capito? Hai capito? Alle 7:47 minuti siamo qui. Allora, ci sono delle notizie importanti sulla Grecia. Oggi Repubblica mette a pagina 2-3 con Ettore Livini i dettagli del piano di Atene. Cosa sono questi dettagli? Sapete che c'è stato questo accordo in extremis, come ci aveva peraltro preannunciato il nostro grande Alberto Forchielli qui 3 giorni prima dell'accordo. Ci aveva detto: ma sì, ci sarà una grande manfrina, ognuno farà in modo di far finta di tenere duro Atene con i propri elettori, la Grecia, e poi faranno un accordo in extremis, che c'è stato. E racconta Ettore Livini di Repubblica che la Grecia di Tsipras, con buona pace delle promesse elettorali, riparte dalla Troica. È un'istituzione che non metterà più piede ad Atene, aveva garantito il leader di Siriza la sera del 25 gennaio dopo la vittoria delle elezioni. Ma la Realpolitik, la drammatica fuga di capitale dalle banche, hanno avuto la meglio e il premier è stato costretto a raggiungere un compromesso al ribasso all'Eurogruppo, e stamattina formalizzerà la retromarcia forzata inviando per approvazione alla Troica, Unione Europea, BCE e Fondo Monetario, il piano di riforme del governo, cioè l'ultima carta per tenere Atene in Europa. E questa lista di riforme sono 6 pagine di documento, una lista di buoni propositi: lotta alla corruzione, deregulation, riforma del pubblico impiego, guerra totale a oligarchi, burocrazia, cartelli ed evasori fiscali, e perfino un impegno a non bloccare le privatizzazioni. Insomma, un accordo che in qualche modo sconfessa subito ciò che era stato detto subito dopo le elezioni, la Troica non metterà mai più piede ad Atene, e oggi mandano alla Troica la lista di quello che faranno per rimediare alla situazione economica sull'orlo del baratro in Grecia. Tra l'altro, sempre su Repubblica, pagina 3, c'è un'intervista a James Galbraith, che è stato collega di Varoufakis in Texas, dove hanno studiato all'università, e ha accompagnato Varoufakis negli incontri in Europa, e racconta James Galbraith in questi incontri: ho visto Schäuble, cioè il ministro delle finanze tedesco, che zittiva Juncker. Così Berlino comanda nei vertici di Bruxelles. Questo è il titolo dell'intervista a James Galbraith che trovate a pagina 3 di Repubblica. Vabbè, venendo alle cose italiane, spesso lunedì i giornali sono di approfondimento e quindi regalano notizie e inchieste molto interessanti. Ve ne segnalo due. La prima è del Fatto Quotidiano, pagina 6 e 7, è una vicenda che riguarda le migliaia di professionisti, avvocati, docenti, revisori di conti, custodi giudiziari, architetti, ingegneri, maestri di scuola, tutti coloro che lavorano per lo Stato e tutti coloro che sono in attesa di essere pagati dallo Stato. Dimenticate il capitolo doloroso, già doloroso, delle imprese. Questa invece è la coda dei creditori, fatta da un fiume di carne, volti, professioni. È Carlo Di Foggia che racconta, a pagina 6 del Fatto. È una coda virtualmente lunga che, messi in fila i nomi, formerebbero un serpente lungo chilometri con cifre stellari. Quanto si aspetta in media per i contabili per essere pagati dallo Stato? 180 giorni in media, per gli architetti 217 giorni, per i docenti a contratto 90 giorni, gli avvocati anche fino a 4 anni. Questo sul Fatto Quotidiano, i professionisti gratis e lo Stato non li paga. Mentre l'altra inchiesta è intitolata sul giornale Gli avvoltoi della beneficenza. Sono delle indagini, Enrico Lagattolla racconta, della Guardia di Finanza, su finanziamenti truffa ottenuti speculando su tragedie, attività commerciali mascherate da associazioni di volontariato. In tutto un totale di 400 milioni l'anno di evasione, è insomma il lato oscuro del terzo settore. Bocciofile, club privati, un business del finto no profit che garantisce un'evasione di 400 milioni, ma anche finanziamenti a circoli di golf finanziati dallo Stato, associazioni ricreative che in realtà sono redditizie palestre alla moda, insomma tutto ciò che nel terzo settore viene fatto in maniera, come dire, poco chiara, è un eufemismo. Gli avvoltoi della beneficenza è l'inchiesta del giornale di 3 pagine, 9, 10, 11. Voglio andare invece alla cronaca, perché questa su Repubblica ha del clamoroso. Giuseppe Caporale racconta la storia di Paola Giuliani, dirigente al comune dell'Aquila, reintegrata dopo aver fatto un ricorso al giudice. Guardate il titolo, La dirigente era stata punita perché non porta l'acqua ai consiglieri comunali. Aveva lasciato i consiglieri comunali riuniti in assemblea senza bottigliette d'acqua a disposizione sui banchi in un particolare periodo canicolare. Per questo Paola Giuliani, 56 anni, avvocato, dirigente municipale dell'Aquila, era stata sospesa per 3 giorni con relativa decurtazione dello stipendio per avere causato disdoro, ma come parlano, disdoro all'amministrazione comunale. Vi rendete conto, non aveva portato l'acqua ai lor signori del consiglio comunale. E per questo era stata sospesa 3 giorni. Lei ha fatto ricorso. Questa vicenda, racconta Giuseppe Caporale, è venuta a galla adesso, quando, fatto il ricorso, dopo 2 anni il giudice ha dato ragione a questa dirigente, dicendo che doveva essere reintegrata e gli si doveva dare indietro lo stipendio che gli era stato tolto. Ma vi rendete conto? La dirigente punita perché non porta l'acqua ai consiglieri comunali. Siamo alla schiavitù. Siamo alla schiavitù, vabbè. Parleremo alle 8:15 di Roma, le devastazioni, oggi il Messaggero si concentra, 2 pagine, Lo faremo anche noi, ma vince la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccolo qui, una pagina sul Corriere, su 007. Le riprese a Roma, bodyguard, transenne, riprese e i romani che dicono: ah oh, me fate passà, me fate passà. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Allora, beh, i suoni ormai sono diventati celebri, i barbari olandesi sono già tornati a casa, così titola oggi il Messaggero, quasi tutti, ne rimangono sei di tifosi del Feyenoord per i quali il giudice ha convalidato il fermo tramutandolo in arresto, ma già oggi, seppur accusate di resistenza e lesioni, dovrebbero essere rilasciate e tornare in patria per poi rientrare per il processo. Sì, il processo chiaramente sarà un processo in contumacia. Ci sono state polemiche a non finire per quello che è successo dopo la devastazione di Roma, di una parte di Roma, da parte di alcuni tifosi olandesi. Noi italiani siamo sempre così: prima succedono le frittate, scoppiano i casini e poi a rimpallarsi le responsabilità, a cominciare dal sindaco, il sindaco Marino, che dice: colpa del questore e del prefetto. È inaccettabile che ci siano delle falle così importanti nella sicurezza nella capitale d'Italia. Ci sono uomini della polizia, dei carabinieri, che ogni giorno fanno il loro dovere con spirito di sacrificio. Marino se la prende con il questore e il prefetto. Il questore D'Angelo ha stretto giro, nel giro di 24 ore aveva risposto dicendo: va bene accettare anche dei muri sporchi piuttosto che rischiare una carica e rischiare dei morti. Abbiamo ritenuto di controllare e monitorare la situazione proprio allo scopo di evitare di intervenire massicciamente, per evitare di accendere dentro quella piazza una miccia spaventosa. Così il questore. Quello che rimane sono le immagini delle devastazioni, gli monumenti distrutti. Le immagini oggi, leggete, guardate il Messaggero, Repubblica, di gente che piscia ovunque, per strada, ma io dico, fatelo a New York, provate a fare questo esperimento, mettetevi a pisciare all'aperto a New York e vedrete voi se nel giro di un minuto non vi ritroverete faccia a terra con due manette ai polsi. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan, 800 24 00 24. Voglio salutare Oliviero Bea, buongiorno del Fatto Quotidiano, e voglio salutare Massimo Giletti, che conduce l'Arena su Rai 1 la domenica alle 14. Anche ieri ve ne siete occupati. Massimo, buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Allora, Oliviero Bea, qualcuno mi scrive, mi dice, ci telefona e dite: guardate che questo problema c'è con il calcio come sport, no? Alla partita di rugby, anche di recente, erano tutti magari un po' brilli, ma non è successo niente. È il calcio che genera questo tipo di problematiche? Ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano, sembra vicino ma lontano. Il calcio come rappresentazione bellica da un lato, come rappresentazione religiosa dall'altro, quindi che muove simbolicamente una serie di emozioni, di interessi, e psicologicamente fa da miccia, come direbbe il questore che abbiamo appena sentito, di cui credo parleremo. Sì. Il calcio evidentemente è talmente complesso che ormai è quasi sempre un pretesto per altro, cioè il calcio assume sempre meno importanza dentro il campo, infatti si gioca peggio, e sempre più importanza nel contesto dello stadio, degli interessi che muove lo stadio e di tutto quello che succede intorno allo stadio. Anche Piazza di Spagna è in un certo senso un intorno allo stadio. Perché dici parliamo del questore? Parliamone subito del questore, è la domanda classica. Raramente ho visto una cosa ignobile come quella dei barbari, dei vandali olandesi, e raramente ho visto uno scaricabarile di pessima qualità come quella del sindaco, del questore, del prefetto. Allora, il sindaco la sera prima succede a Campo dei Fiori tutto quello che succede, e il sindaco non si sente in dovere la sera, come primo cittadino, di chiamare con grande urgenza tutti i responsabili dell'ordine pubblico per dire: guardate, qui sta succedendo in Ira di Dio, domani può risuccedere al centro di Roma. Non ci voleva un genio. Lui dice che l'ha chiamato, l'hanno tranquillizzato, è tutto sotto controllo. Come sarebbe tutto No, nel senso che è stato tranquillizzato, almeno questa è la versione del sindaco. Ma voi che come ce la vedete? Una telefonata a cena, subito dopo cena, del sindaco dice: caro questore, come va? Dice: sì, abbastanza bene, domani è tutto tranquillo. Sì. Mi sembra grottesco. Sì, e quel questore che dice: ma mica volevamo il morto. Ma come? Tutte le volte c'è una manifestazione, che ne so, della CGIL o di chi protesta, manganellate, e ne vediamo di tutti i colori, e loro permettono che succeda una cosa del genere. Intanto non c'è stata una prevenzione, perché si doveva chiudere il centro, sì, a questo punto. Visto che poi vanno lì, si comprano facilmente le birre e tutto il resto, ci doveva essere una forma di prevenzione. E poi questa storia che stessero lì a guardare per non far questo è un po', sì, è un po' dal segno un po' della resa. Da un lato della resa e dall'altro dell'impotenza totale. Questi vengono in Italia perché sanno, intanto c'è la premessa, ma l'ha detto lei bene prima, c'è la premessa, diciamo così, delle conseguenze, o meglio delle non conseguenze giudiziarie di tutto ciò. E poi c'è il fatto che non c'è controllo. Non c'è controllo. Però un controllo c'era. Ieri Massimo Giletti, tu avevi Salvini, e sentiamo Salvini cosa ha detto. Una cosa che effettivamente anche a me ha colpito, la questione dell'alcol, è interessante. Sentiamo Salvini. La prima vergogna è che nessuno si sia dimesso, hanno tutti delle responsabilità. Il sindaco ha la garanzia dell'ordine pubblico e comanda i vigili urbani. Giustamente qualcuno mi suggeriva: chi ha comprato abusivamente da venditori clandestini migliaia e migliaia di bottiglie di birra? Dove sono i vigili urbani? Ecco, questo è un altro problema, Giletti, cioè, perché noi giriamo sempre la faccia, però qualcuno ci ha lucrato, no? Con dei soldi, con le vendite di alcol per questa cosa, e poi c'è tutto il resto. Massimo, come è andata? Io non lo so se stiamo qui ancora a parlare di queste cose. In fondo il Colosseo è rimasto in piedi, quindi... Bene così, dici, bene così almeno. Bene così, non c'è stato il morto, il Colosseo è rimasto in piedi. Io trovo veramente, al di là dell'ironia, continuamente noi ogni situazione di calcio ritorniamo a dire le stesse identiche cose. Non ci dovranno più essere fatti del genere, inaspriremo le pene, i colpevoli vanno puniti. È Oliviero che segue il calcio da molto più tempo, potrebbe fare un elenco infinito di fatti gravi, più o meno gravi, che si verificano nel nostro paese senza che poi succeda nulla. Io, per rispondere alla tua domanda, ti racconto una vicenda vissuta da me. Era la partita Roma-Bayern. Piazza di Spagna era in mano a un migliaio di tedeschi ubriachi che compravano tranquillamente bevande dai pakistani, i venditori abusivi che giravano l'intorno, e dai quei famosi camion che vendono roba, sì, di tutti i tipi, no? Le mercerie viaggianti. Quindi non c'era un vigile, quindi questa è la responsabilità del comune, perché il controllo di questo va fatto dai vigili. Non c'era un comune, nessuno che controllasse, e questi erano totalmente ubriachi. Ma perché si trovavano lì in Piazza di Spagna, nel cuore di Roma? Perché il punto di raccolta dei mezzi pubblici è esattamente sopra Piazza di Spagna. Questi mezzi pubblici, che poi vengono regolarmente devastati, servono per portarli gratis allo stadio. Allora, questo era successo a novembre, se non sbaglio, non mi ricordo più, insomma, a novembre era già successo. Certo, non c'erano stati gli scontri, ma la polizia era presente in modo massiccio, era stata chiamata in modo massiccio. Questa volta, anziché tirare le bottiglie per terra, hanno iniziato a spaccare tutto e a tirarle contro la polizia. Il problema è un altro, secondo me, e parte dal G8, da quello che è successo al G8. Noi, secondo me, ci dobbiamo decidere: o vogliamo una polizia che sta lì, ferma, passiva, che non usa i manganelli, e quindi deve resistere, far finta di niente, pigliarsi gli insulti, gli sputi, perché al G8 ha sbagliato totalmente in modo vergognoso con quello che era successo alla Diaz, oppure dobbiamo pensare che la nostra polizia debba fare quello che fa la polizia normale negli altri paesi. Ma sì, cioè, ma perché in Europa attivarsi. Non succede, infatti perché in Europa perché non succede? Perché? Ma perché, come diceva Oliviero, ma se uno come io Oliviero andiamo in Europa, ci fermiamo a Trafalgar Square, iniziamo a far pipì da tutte le parti, ma secondo voi un poliziotto cosa ci fa? Appunto. Questo è un problema. L'Italia viene vista come un paese dove si può fare qualsiasi cosa. Questo è il punto. E la polizia è, tra virgolette, obbligata, per paura di prendere qualsiasi tipo di decisione, a operare per limitare i danni, non per contrastarli. Poi loro mi possono dire tutto quello che vogliono. No, ma il dato di fatto un po' è questo, che effettivamente i tifosi del Feyenoord in Olanda, leggevo i giorni successivi, sono stati letteralmente neutralizzati, cioè in Olanda, e sono gli stessi, non è che sono persone che cambiano pelle, sono gli stessi, però in Olanda non possono fare nulla, evidentemente, perché appena fanno qualcosa vengono adeguatamente puniti. Poi c'è tutta la questione del risarcimento. Ecco, io qui sono abbastanza impazzito. Oliviero Bea, fatemi capire, ma perché un olandese normale, non uno di quelli che ha fatto queste cose, un olandese dovrebbe risarcire l'Italia per quello che è successo? Ma che io mi metterei a risarcire se i tifosi della Juve, della Roma, del Milan, dico del Milan anche se noi in Europa ormai non viaggiamo più, ma comunque dovrei risarcire perché dei tifosi, io cittadino italiano normale, perché dei tifosi distruggono delle cose non controllate dalla polizia in un altro paese? Olivier. No, hai ragione, naturalmente messa così non ha senso. Posso tornare per sì. Un secondo indietro a una differenza che Massimo, che saluto, forse sottovaluto, perlomeno non ha detto, e l'avrà data per implicito sicuramente, e cioè la moviola di questi accadimenti, di questi eventi fra il grottesco e il ridicolo. E la sera prima c'è stata questa avvisaglia, questo che a me, contrariamente ad altre situazioni, mi fa effetto, e non c'è stato un comportamento da parte delle forze dell'ordine e delle istituzioni adeguato all'allarme della sera prima. Mi spiego meglio: contemporaneamente anche i tifosi del Chelsea, cioè i tifosi inglesi a Parigi, perché giocavano due giorni, un giorno prima giocavano una partita di Champions League, hanno sulla metropolitana ne hanno fatte tutti i colori, no? Ecco, però questa è stata sulla metropolitana, non previsto, e via dicendo. Nel caso nostro, nel caso dei tifosi olandesi, e del resto è una moviola che parte da lontanissimo, bene ha detto Massimo, e vedi anche il Bayern di novembre, ma insomma c'erano tutte le avvisaglie, questo è il problema. Come no? Ma ci avevano chiamato anche giorni prima a dire: guardate che arrivano in 5.000, in 6.000. Sì, ma in 5.000, in 6.000 in assetto di guerra, tra virgolette o meno, insomma, ecco, per dire. Quindi è francamente una cosa imbarazzante. Questa zona franca che è diventata l'Italia è una cosa... Però dice Massimo Giletti, forse ci vuole una polizia più repressiva, la traduco così, c'è una polizia che possa intervenire. No, ma scusami, sì. scusami, qui allora voglio dire, faccio una provocazione: se la polizia italiana avesse fatto proprio come su quello, sulle basi, con ragione, di quello che diceva Oliviero, fosse andata come hanno fatto i polacchi sui laziali, come no, fuori dagli alberghi, e a fermare 3, 4, 500 di queste persone, che poi bene o male si sa e si vedono anche fisicamente come sono fatte, no? Quelli violenti, non andiamo a fermare le famiglie che ho visto che giravano insieme a queste altre centinaia di tifosi. Che reazione ci sarebbe stata nel nostro paese? Ma infatti c'è stata, ricordo, l'ambasciata, oddio, e lì li hanno tenuti in carcere, non so per sì, quanto. Ma da noi, se avessimo fatto la stessa cosa, dicendo: visto che avete fatto casino la sera prima, onde evitare, anziché farvi girare tutte le piazze italiane, che non è che possiamo militarizzare ogni singolo monumento italiano. Tu dici, sarebbe stata una polemica incredibile. Portarli 24 ore in caserma anziché portarli gratis allo stadio, magari. Sì, Massimo, e quindi diventa una questione politica, hai ragione, di opinione pubblica, di rapporto politico, ma a questo punto siamo caduti dall'altra parte del cavallo. Quando è troppo, mettiamola così. Ma io non voglio che le mie città vengano messe a ferro fuoco a ogni partita sportiva. Io vedo elicotteri, truppe blindati, poi alla fine la devastazione c'è. Però una cosa Oliviero, bisogna dirla: perché all'estero non succede nella misura in cui succede a Roma? Cioè, a Roma, perché dico Roma, in genere si va a giocare a Roma o a Milano. Certo, Roma è più facilmente aggredibile per tutti i beni che ha. Adesso fa perfetto la barcaccia del Bernini e via, ecco, questo è ovvio. E perché non succede all'estero? Ma per tutta quella serie di motivi che stiamo elencando, cioè da un lato perché la polizia fa la polizia, qui non si tratta, è come per la giustizia giusta, cioè l'aggettivo aggiunto, qui si tratta di una giustizia che funzioni, giusta o non giusta, non la metterei in questi termini, di una giustizia normale, decente, presentabile, come di una polizia che funzioni. Qui il G8 ha fatto bene a ricordare Genova e tutto il resto, Massimo, però appunto si chiede alla polizia che non faccia il G8, Galeotto, quella macelleria messicana, ma che faccia la sua azione normale di prevenzione soprattutto e di repressione quando ci serve. Sta di fatto che poi le polemiche ci sono, chi pagherà? Massimo, chi pagherà poi? Sei capito? I soldi, una cosa fondamentale se posso aggiungere è questa. Che insomma l'UEFA, chi incamera i soldi di tutto questo? Certo le società che organizzano, ma soprattutto l'UEFA, l'organismo internazionale. Quindi dovrebbe pagare l'UEFA, il FEI. Non paga mai, cioè, perché non si fa? La UEFA ha delle responsabilità. Vabbè, l'UEFA, anche tu Massimo la pensi così, dovrebbe pagare l'UEFA. No, io penso che intanto l'idea di Alfano di piazzare un DASPO europeo è già una cosa, perché nel silenzio assoluto già questo potrebbe essere un'idea. Il problema è che secondo me il gesto l'Olanda, detto che l'Olanda chiaramente ha ragione, vuol dire non è che l'Olanda o l'Italia non pagare i danni di 100 imbecilli e teppisti delinquenti, però l'Olanda poteva fare il gesto, andarglielo a chiedere mi sembra ridicolo, cioè si poteva evitare, però io ripeto, vorrei una polizia che avesse una libertà, non la paura di agire. Mi sembra che la polizia gestisca le situazioni onde evitare il peggio e accontentandosi, e purtroppo in prima fila li vedete, questi ragazzi subiscono di tutto, di limitare i danni, perché c'è un ordine politico evidentemente che non vuole avere problemi. Va bene. Purtroppo chi paga sono i poliziotti e i carabinieri in prima linea. Un po' è così. Allora, io ringrazio Massimo Giletti, grazie Oliviero Bea. Dopo la pubblicità ci sono tanti che stanno chiamando, gli ascoltatori, Angelo da Bergamo, Francesco da Siena, sono da voi. Spazio anche alle vostre telefonate, tra poco. 24 mattino. Sono le 8:39 minuti in punto. Allora, le vicende di Roma sono tantissimi, gli SMS sono tantissimi, le telefonate, iniziamo dagli ascoltatori, qualche SMS poi lo vediamo, c'è chi dice colpa del sindaco, colpa del questore, colpa, chi ci scrive come Giovanni da Bologna, il calcio è uno sport da cittadino medio e il cittadino medio è assolutamente stupido. Vabbè, questo è il giudizio di Giovanni da Bologna. Comunque andrei da a Siena, Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Pronto? Sì, la sentiamo benissimo. Ecco, io volevo portare una testimonianza che riguarda l'incontro di calcio di serie inferiore, perché era campionato nazionale dilettanti. Ieri si è giocato l'incontro di calcio Fucibonsi-Siena, che era la prima contro la seconda. Sì. La testimonianza è che noi ci siamo mossi in 1000 persone, perché solo quelli erano i biglietti a disposizione, siamo andati alla stazione, siamo montati in treno, alla stazione di Fucibonsi abbiamo trovato le forze dell'ordine, ci hanno messo nei pullman, dai pullman siamo andati allo stadio, siamo entrati nel nostro settore, c'erano gli steward, c'erano carabinieri. Vabbè, non mi faccia non mi faccia tutta la cronaca della giornata, è andata bene comunque. Sì, ecco, ed era una partita del campionato nazionale dilettanti, dove le forze dell'ordine e le persone preposte all'ordine pubblico avevano fatto in modo che non succedesse niente. Magari c'era un po' di rivalità, e quindi bene, cioè lei vuol dire che in una partita così minore c'era un controllo. Il problema, sa, allo stadio è una cosa, qui quando ti arrivano 6.000 due giorni prima e scorrazzano per la città è un po' diversa la questione che gestire. Però lei dice, Francesco, in una partita minore era tutto sotto controllo. Sì, gestire effettivamente la trasferta è un po' più facile nel momento in cui ti metti su un pullman o un treno, poi vai allo stadio, forze dell'ordine. Qui è difficile quando la gente si mischia in mezzo alle persone normali. Andrei a Bergamo da Angelo, buongiorno. Grazie, buona giornata. Sì. Ho ancora gli occhi che mi stanno lacrimando adesso. Perché io giovedì pomeriggio alle 2 ero là in mezzo alla piazza di Spagna. Era in piazza di Spagna, interessante. Sì, con la mia famiglia, con mia moglie e due miei amici. Immagino lo spavento. Lo spavento, dunque c'erano 70-80 poliziotti sulle gradinate. Giù c'erano le famiglie con i bambini. Questi poveri disgraziati poliziotti cosa dovevano fare? Caricare che cosa? E forse erano in pochi, forse erano... No, ma a parte tutto questo, dovevano... Già il giorno prima, dopo 10 minuti, sono rimasto fuori di Campo dei Fiori. Dovevano bloccare via Condotti e tutte le altre strade e non farle arrivare in Piazza di Spagna. Quindi quello che diceva Gillette, cioè a dire già il giorno prima si sapeva, cioè, bisognava andare a prenderli, esempio, bisognava evitare che si trovassero, sì, in quella situazione. Già, anche poi dopo queste bottiglie clandestine, non clandestine, sono tutte, uno è entrato lì in via Condotti, perché dopo noi siamo riusciti a prendere una strada laterale e venir via, mm-hmm, i primi negozi di via Condotti li hanno chiusi e devastati. Certo. Cioè, e si vedevano queste cose e nessuno non poteva intervenire, no? 70-80 poliziotti. Sì, ormai ci fa capire, Angelo, anche lì da lì dentro, la situazione in quel momento era fuori di controllo. Non bisognava crearla quella situazione. Una volta che si era creata era non controllabile. Mi sembra di tradurre anche dalla sua testimonianza diretta questo, e la ringrazio. Gabriele da Cremona, buongiorno. Buongiorno Milana e grazie per la trasmissione che fa, sì, sempre. Considerazione, come diceva adesso, proprio non si doveva creare, quindi perché la si è voluta creare? Beh no, non si è stato in grado di evitarla, non è che qualcuno l'abbia voluto. Beh, bastava portarli al Circo Massimo, si tenevano là due giorni. Ma ci ha spiegato Giletti che da lì partono i pullman, sì, per l'Olimpico. Vabbè, se si vuole tenerli fermi. Poi nel senso, voglio dire, se arrivano 6.000 persone, che in teoria sono turisti, uno dice voglio andare a visitare Roma, non è che puoi impedirglielo perché c'ha la sciarpa del Feyenoord, eh? Non è che sono dei soldi. Ma detto questo, due considerazioni. Uno, il ragionamento che ha fatto lei per il cittadino straniero, perché deve pagare per quello che ha fatto il proprio tifosi, allora perché noi come italiani dobbiamo pagare sempre per queste cose che succedono? Sa perché glielo dico? Ma un vecchio dibattito perché purtroppo è successo in Italia, certo, non siamo stati in grado, o pagano successo, quelli che beccano, i sei che beccano, se li condannano, se hanno i soldi, o se no deve pagare lo Stato dove è successo, che altro si può fare? Però dica, Gamere. Si individuano queste persone perché oggi si possono, infatti, vedere, basta mettere le 48 ore, le 72 ore, una settimana che l'immagine, e queste ma persone li hanno arrestati, ci sono sei in carcere e dopo escono subito, appunto, subito. Ma alcuni allora, hanno alcuni politica, no, guardi Gabriele, però alcuni mi scusi mi lasci finire, sì, la questione è politica, perché di fatto dagli anni 70 in poi, non vado troppo indietro, una certa intesa di autorità e certe forze dell'ordine sono state viste come quelle di destra che menavano, e la cultura è stata nelle scuole diffusa, l'autorità non ci vuole. Vabbè, però non facciamo tutta la questione, il 68. Ma certo che ha ragione Giletti, che cosa avrebbe fatto tutto un certo pensiero, certi giornali, se avessero menato questi e vabbè, ci sarebbero state appunto, polemiche, però Gabriele, allora, per correttezza bisogna anche dire che alcuni di coloro che sono stati arrestati, mi lasci dire, hanno scambiato la pena, la possibile pena con una pena pecuniaria, hanno pagato uno credo 40.000 euro ed è uscito, quindi uno di questi tifosi ha pagato 40.000 euro ed è uscito, ecco, quei soldi si potrebbero utilizzare, penso, per sistemare la barcaccia, credo che funzioni così, no? Dovrebbe funzionare così normalmente. 24 mattino. Eccoci qui. Comunque, che non siamo in grado di gestire queste situazioni di ordine pubblico complicato lo dimostra anche il fatto che, ve lo ricordate, che qualche tempo fa, non lontano, c'è stato un morto, Ciro Esposito, alla finale di Coppa Italia, Napoli-Fiorentina, no? Con i tifosi della Roma, il Napoli. Ecco, non è successo anni fa, è successo poco fa. E evidentemente quando arrivano 4-5.000 persone legate al calcio non siamo in grado di gestire queste cose, è evidente. Ma voglio salutare Carlotta Sami, buongiorno Carlotta Sami, portavoce per il Sud Europa e l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, quindi parliamo di un altro tema, quello dei migranti. Mi ha molto colpito questa cifra che Il Sole 24 Ore metteva la scorsa settimana in ampio risalto, 1 miliardo almeno è il costo per lo Stato italiano per la gestione personale, centri, insomma tutto quello che consegue. Un miliardo di cosa? Un miliardo di euro. È un po' troppo? Lo chiedo a lei. Ma bisogna andare un po' dentro le cifre, perché dire 1 miliardo cifra secca intanto mi sembra molto alto. Poi bisogna vedere cosa c'è dentro questo miliardo, perché ci sono diversi flussi che provengono anche da diversi budget. Sicuramente la metà di questo proviene da un fondo messo a disposizione dalla Commissione europea e diversi fondi riguardano sia la gestione, diciamo, dell'immigrazione, sia la gestione dei richiedenti asilo, la gestione dell'accoglienza dei minori non accompagnati, sono tanti filoni diversi, tanti filoni, e soprattutto vengono gestiti da soggetti diversi anche all'interno dello Stato. Senta, ovviamente adesso la situazione in Libia è una situazione di uno Stato allo sfascio, questo lo dicono tutti, e il timore è che addirittura venga utilizzata, cosa che peraltro già viene fatta, è stata fatta in passato, ma adesso di più, viene usata questa espressione, anche se brutta, l'arma umana, no? Cioè si parla di 200.000 persone pronte a partire. Voi che cosa ne sapete? Allora, intanto va detto che questa cifra è una cifra che non ci sorprenderebbe, dato il fatto che l'anno scorso in Europa del Sud via mare sono arrivate 206.000 persone. Quindi proprio per questo incremento degli arrivi fu detto che era tutta colpa di Mare Nostrum, e fu quindi detto all'Italia di chiuderla. E adesso abbiamo un'operazione nuova che gestisce in maniera molto diversa il tutto, e nonostante questo abbiamo visto che già nei primi due mesi del 2015 gli attraversamenti sono aumentati del 110%. Questa operazione Tritone, ma lei la critica? Secondo lei è sbagliata? Allora, è criticabile sotto diversi punti di vista. Innanzitutto perché non ha mezzi sufficienti per salvare il numero di persone che devono essere salvate in mare, perché purtroppo la crisi che abbiamo davanti è di proporzioni notevoli dal punto di vista europeo, faccio sempre presente questo, perché se noi pensiamo che i nostri vicini di casa, come i turchi ad esempio, si stanno gestendo, 2 milioni di siriani hanno visto attraversare il confine quest'estate a circa 500.000 persone in una settimana, possiamo un po' capire quali sono le entità, e non devo dire che non stanno facendo tutto il rumore che viene fatto spesso a livello europeo. Comunque l'operazione non è sufficiente, l'operazione poi è anche criticabile dal punto di vista operativo, perché Mare Nostrum ad esempio aveva avuto il grande pregio di non solo salvare ma anche controllare e monitorare costantemente, ha fatto arrestare quasi 400 scafisti, aveva un sommergibile che pattugliava continuamente. Insomma, secondo lei era meglio Mare Nostrum? Era meglio perché fra l'altro metteva in piedi anche delle procedure, perché i migranti e i rifugiati venivano imbarcati su navi su cui c'era ad esempio la polizia, i medici, e quindi molto lavoro veniva fatto già su queste navi prima di sbarcare. Però uno di questi timori che c'è adesso, anche se la nostra intelligence ha detto un po' una boutade, però qualche allarme c'è stato, è quello dell'arrivo anche di possibili terroristi. Guardi, è stato smentito, noi abbiamo sempre detto che tanto non c'è mai stata evidenza di questo, ma non bisogna, questo non è un motivo per abbassare la guardia, per questo dicevo che era positivo avere anche i presidi di polizia sulle navi. È stato smentito sia da Minniti, è stato smentito dal ministro Alfano, è stato smentito dagli stessi procuratori che indagano sulla tratta da anni e che hanno condotto a termine anche operazioni importanti, ad esempio condannando a 30 anni di carcere recentemente uno di questi trafficanti. Anch'io me la vedo anch'io un po' difficile, che un terrorista prenda un barcone. Recentemente, per non parlare dell'Europa dove le bombe sono state messe da europei, e gli attacchi sono stati, ma anche in Somalia la settimana scorsa c'è stato un attacco con decine di morti e l'attentatrice era una donna olandese. Senta, il professor Cacciari qui ai nostri microfoni la scorsa settimana ha detto: io, proprio anche per una questione umanitaria, per evitare che molte persone, come purtroppo accade, affoghino, farei una prevenzione perché partano, proprio anche una barriera difensiva europea di navi per impedire loro che partano, e valutare magari chi ha le condizioni per partire dai paesi di partenza, invece di farli fare queste lunghe traversate nei deserti e poi queste traversate di mare che spesso finiscono in tragedia. Che ne pensa? Allora, innanzitutto bisogna, e penso che Cacciari lo sappia bene, ottemperare a convenzioni internazionali che sono state pensate non da persone particolarmente buone, ma sono state pensate all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quindi la Convenzione di Ginevra, alle quali non si può abdicare, ma non lo possiamo fare perché al posto. Ma infatti, ma lui dice però valutiamo in patria, cioè certo, per evitargli queste traversate. Infatti, da questo punto di vista, intanto è un lavoro che ad esempio noi facciamo, ma andrebbe fatto in maniera più strutturata, e non ci tireremmo indietro se a monte però ci fosse una decisione a livello europeo di accogliere con numeri prestabiliti quelli che hanno diritto alla protezione, quindi i rifugiati. Purtroppo questo non c'è, questa strategia a livello europeo non c'è, o comunque i numeri sono ancora bassissimi. Pensiamo che, non so, l'Inghilterra ha accolto in questo modo 94 siriani su una popolazione di rifugiati di circa 4 milioni. Quindi se a livello europeo ci fosse questa possibilità, e se questa possibilità di esaminare le richieste fosse messa in piedi in paesi comunque sicuri, perché sì, ovviamente allora non possono... si potrebbe fare certamente, ma non sono questo tipo di discorsi sono stato già abbastanza avanzato, ad esempio per quanto riguarda alcuni paesi africani. Ma ribadiamo, noi ci mettiamo a disposizione, ma prima deve essere fatto un passo in avanti a livello europeo, in cui non tre o quattro membri dell'Unione Europea, ma tutti i 28 si decidano di prendere, insomma, delle cifre certo, certo, perché a quel punto, se dividiamo una certa cifra per 28 membri, il discorso diventa anche più gestibile. Allora, io intanto la ringrazio, grazie Carlotta Sami, grazie a voi. Che voglio ricordare portavoce per il Sud Europa e l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU. Ovviamente di questa vicenda torneremo a parlare, perché legata anche alla crisi internazionale è un tema che ricorre. Oggi niente ciao Italia, ma perché c'erano tanti temi, ma torneremo domani a capire chi ci segue dall'estero. Voi scriveteci a 24mattino @radio24.it. Mi dispiace per Valentino, Edoardo, Giuseppe, volevano intervenire sul tema del calcio, ma il tempo corre, il tempo fugge. Abbiate pazienza, perdonatemi, mi metto un po' di cenere sul capo, ma vi ringrazio comunque, così come Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Grazie a voi, e Carmelo Lauricella in regia con l'alpino Peter Bescapè. Oggi due in regia, due, a domani.